Italia in controluce. L'avete sentito anche in GR24, oggi pomeriggio dunque alle 17 funerali di Giulio Andreotti, mentre proseguono ad arrivare politici e amici alla Camera Ardente, rigorosamente in forma privata, come del resto anche funerali, allestita nella sua casa romana dove è morto ieri a 94 anni. Andreotti, l'uomo dalle sette vite, sette furono le volte in cui diventò presidente del Consiglio. Andreotti, Belzebù o Divo Giulio? In questi giorni stiamo davvero leggendo di tutto, stiamo ascoltando di tutto. Forse si sta insistendo invece meno sull'aspetto legato alla figura di Andreotti sullo scenario internazionale, europeo e non solo, su cui pure ci sarebbe davvero molto da dire. Allora, Mario Platero ha intervistato ieri Richard Garner, uno degli ambasciatori americani a Roma, che ha avuto a che fare con Andreotti negli anni Ottanta. Sentiamo le parole di Garner. Beh, questo applauso è un applauso che il Congresso ha dedicato a Giulio Andreotti quando nel 1990 venne a parlare al Congresso americano riunito in seduta plenaria. Un onore, devo dire, piuttosto raro, lo hanno avuto soltanto alcuni presidenti del Consiglio italiano o presidenti della Repubblica, ma sicuramente questo onore è toccato a Andreotti. Tra l'altro, il giorno prima c'era stata una cena in suo onore, stiamo parlando dell'amministrazione Bush Senior, una cena in suo onore alla Casa Bianca, una cena in cravatta nera, una cena di Stato con spettacolo, e alcuni di noi giornalisti sono stati invitati a partecipare a questo evento che, devo dire, è stato davvero indimenticabile. C'erano alcuni direttori di giornali venuti dall'Italia al seguito di Giulio Andreotti, c'erano ministri del governo americano, c'era allora Gianni De Michelis che era ministro degli esteri. Ecco, per Giulio Andreotti è stata veramente una doppietta importante dal suo punto di vista, io credo dal punto di vista della sua carriera politica, perché ha dimostrato ai critici di certi suoi atteggiamenti nei confronti dell'America, della politica americana, che in realtà il suo rapporto con l'America era un rapporto che restava molto molto stretto. In effetti Giulio Andreotti non è sempre andato d'accordo con l'America, devo dire, io lo ricordo qui a New York in situazioni molto diverse. Una volta, per esempio, stiamo parlando del 91, venne al Plaza solo per partecipare a un convegno di latinisti. Un'altra volta andò a Disneyland a girare Disneyland, così per capire questo mondo del divertimento per i giovani, per i ragazzi. Un'altra volta ancora venne soltanto per concentrarsi sul negoziato del GATT, e questo lo fece a Washington. Parlando di GATT, parliamo di ovviamente tempi lontani. Venne spessissimo alle Nazioni Unite. Insomma, Giulio Andreotti è stato uno dei politici italiani che qui, come corrispondenti americani, abbiamo visto più spesso. C'era però, in effetti, devo dire, un rapporto un po' ambiguo tra Giulio Andreotti e l'America. Perché? Ma perché Giulio Andreotti era alleato americano sul fronte antisovietico, e dunque Giulio Andreotti alleato, Giulio Andreotti avversario, invece avversario per le politiche su Israele, sui palestinesi, per quelle nel Mediterraneo e su alcuni fronti economici. E dunque è un personaggio che, considerato a Washington ancora oggi, devo dire, in questi giorni ho sentito parecchie persone, fra chi lo ha conosciuto, ha avuto a che fare con lui per lavoro, è considerato un personaggio complesso, indecifrabile, imprevedibile, ambiguo e anche opportunista se necessario, perché quando si trattava di portare avanti una sua tesi o un suo obiettivo di politica interna italiana, beh, Andreotti non faceva sconti a nessuno e neppure all'America, e resta comunque, devo dire, un gigante. Era il gran maestro nel gioco a scacchi della politica italiana. Ecco, questa è la sintesi che ho avuto ieri da una conversazione con Richard Garner, uno degli ambasciatori americani a Roma che ha avuto a che fare con Andreotti negli anni chiave della Guerra Fredda, fra il 1977 e il 1980. Su quegli anni Garner, tra l'altro, che diede il primo visto per venire negli Stati Uniti a un membro del Partito Comunista Italiano, e quel membro si chiamava Giorgio Napolitano, i due hanno ancora un rapporto molto stretto, scrisse un libro che si intitola Missione in Italia sul fronte della Guerra Fredda. Highly intelligent, unflappable, and tough. Ecco, ho fatto una lunga chiacchierata con Gardner, ricordando, ripensando a quegli anni, e qui mi dice che Andreotti era duro, sicuramente molto duro, era la sua fama, e racconta che quando per la prima volta andò a visitarlo a Palazzo Chigi, quando era presidente del Consiglio, dice: beh, mi aspettavo di uscirne scorticato vivo, spellato, e parlammo per 2 ore. E poi dice: mi espose questa sua visione politica con grande pacatezza, ed eravamo d'accordo praticamente su tutti. Dice: ammiravo la sua lucidità, la sua intelligenza, la sua determinazione. E però, dice, quell'incontro non mi preparò a quel che sarebbe successo da lì a poco, quando Andreotti uscì dal governo e di fatto mise i bastoni fra le ruote di un obiettivo politico e militare chiave per l'Alleanza Atlantica. E che dunque chiedo qual era il contesto a Gardner, e lui mi racconta. Just days before the missile debate was to begin, I was visited by two political leaders, Donat Cattin and Valerio Zanoni. Ecco, qui mi dice: il governo Andreotti cadde, noi dovevamo impostare una politica, un nuovo governo guidato da Cossiga, in particolare avevamo il progetto per schierare dei missili di teatro, una mossa strategica importante nello scacchiere dei rapporti con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che eravamo in piena guerra fredda. Ebbene, le cose vanno avanti e presto si deve approdare in Parlamento, ma pochi giorni prima che la discussione sui missili cominciasse ricevo la visita di due leader politici italiani, il democristiano Carlo Donat Cattin e Valerio Zanone, segretario del Partito Liberale, con una notizia allarmante. Andreotti aveva scritto una lettera a Gerardo Bianco, il presidente democristiano della Camera, proponendo un emendamento alla mozione del governo su questi TNF, queste forze nucleari di teatro, cioè i missili cruiser. Beh, poi io osservo che questo fa parte della normale dialettica politica. Andreotti's amendment incorporated the PCI proposal. Ecco, Gardner continua: sì, se non fosse che nell'emendamento di Andreotti era inclusa una proposta del PC che chiedeva di rimandare la decisione NATO sullo schieramento dei missili al fine di consentire l'avvio di negoziati sulla riduzione delle armi. E poi ho incontrato Bianco a casa sua e era molto imbarazzato, perché insomma i giornali cominciavano a sospettare di questa cosa. Ma il punto chiave, dice Gardner, è che Bianco mi assicurò che la proposta di Andreotti non avrebbe cambiato nulla, però insomma c'era da parte di Washington un momento di incertezza nei confronti di un leader che aveva goduto di straordinaria fiducia nei confronti dell'America e che poi sembrava fare un doppio gioco. Perché lo faceva, dice Gardner? Beh, perché cercava di formare un nuovo governo guidato da lui con l'appoggio dei comunisti. Lui immaginava che lavorando col Partito Comunista su questa cosa si sarebbe potuto ingraziare questi voti. Ecco, dal punto di vista di Gardner e dell'America, ovviamente non è stata una cosa apprezzata. Quando però chiediamo di giudicare la persona, Gardner non ha dubbi. No one could question. He's highly intelligent, probably one of the shrewdest, smartest political animals in post-war Italian history. Ancora Gardner: nessuno può mettere in dubbio la sua intelligenza, è stato uno dei più grandi acuti politici italiani nel dopoguerra, con una grande conoscenza di questioni interne e di quelle internazionali. E credo, ammette Gardner, che qualcuno vada a subordinare l'interesse nazionale a quello personale, e d'altra parte è una cosa che questa succede dappertutto, dice Gardner, e lo conferma, lo ammette, succede spessissimo anche in America. Gli chiedo se ha visto il film Divo. Have you seen the movie Divo? Oh, that's a few years ago. Yeah, it came out a few years ago. Well, that was very uncomfortable, very nasty. It hinted that he was with a mafia. No. Well, there you see, I will defend him. Sì, dice, l'ho visto e l'ho trovato davvero antipatico, nasty, esagerato nella sua cattiveria, perché in qualche modo implica che lui fosse un criminale coinvolto con la mafia. No, dice, ecco, su questo lo difendo. Penso che sia stato un film terribile da quel punto di vista, l'ho trovato addirittura diffamatorio. Si può criticarlo come l'ho criticato io, abbiamo avuto differenze politiche e poi ognuno vede le cose dal suo punto di vista. Però questo film va davvero oltre. Per me il film è stato ingiusto. Non è piaciuto dunque a Richard Gardner il divo offensivo nei confronti di Andreotti, secondo lui. Grazie a Mario Platero che ci ha offerto questo sguardo sull'aspetto appunto più internazionale di Giulio Andreotti, Platero che ritroveremo fra pochissimo in America 24.